sto salendo da Corso, da Sorso, dai. Ah, mi ascolti che sono nelle curve di Sorso. Sì, già ti ascolto. Cazzo, quindi mi state arrivando, ma pure da Sorso, mi intendi? Buonasera a todos, Natalino e Franco, Carlo da questa. Ciao Carlo, buonasera, ben sentito. Mi c'è Franco che è nelle curve di Sorso. Ciao Carlo, buonasera, non so se mi ascolti. Santiago 9 da questa parte, forte e chiara la radio. Gappa, quindi va bene, dai. E quale stai usando, quello mio? Gappa è positivo. Come va? Ah, va benissimo. E vabbè, dai, almeno ti preserva un po' la batteria della macchina. Già va bene comunque. Con quello sei attaccato adesso. La radio va bene? Sì, va bene. Chiara qua. Ok, dai. E allora, Natalì, come va? Seduto sono qua, come vuoi che vada. Dobbiamo essere eletto da questa famiglia. Finché non riesco a farmi operare non va tanto bene, no? Ma sempre il problema della gamba, Natalì. Sì, ne ho anche uno più grosso di problema. Ne ho fatto poco di tacchi, di visite, di malassorti varie. Allora, forza e coraggio, dai. E speriamo che tu possa risolvere quanto prima e stare molto molto meglio. Sì, speriamo. Hai visto Carlo, l'antenna va bene quindi. La tua antennina sempre con quella sei. Cavolo, se sei nelle curve di Sorso qua il segnale è bello forte. Gappa di positivo, sono vicino a San Camillo adesso. Vai tu, capito, prima eri ancora più in giù allora. Va benissimo, Fra, va benissimo, buona antenna quella, piccola ma sincera, come si dice. Gappa di positivo. Me la devo cercare se trovo qualcosa di simile, capito, anche se va solo sulla 27, però, capito, per parlare qua sulla 27 quella va benissimo. Questa antenna è piccolina ma rende un bel. Kappa, già lo vedo. Va benissimo. Non c'è nessun altro? Io ho acceso adesso. Sì, anch'io ho acceso adesso, non c'è nessun altro, no. Ho fatto chiamata io a vedere se c'era qualcuno in ascolto. Carlo, buonasera, ciao Natalino, ciao Gianni, chi c'è? Ciao Tonino, buonasera, c'è Franco che è nella zona di San Camillo, in quelle curve, io e Natalino, basta, e adesso sei entrato tu, Tonino, buonasera, vai pure. Gappa, guarda che ti ho mandato una foto che ho fatto poco fa, me l'ho anche già mangiato nel telefonino, guarda cosa ho fatto. Torino, dammi un rapporto di segnale come sta arrivando dalla PM. Santiago 95, la Rede 5. Gappa di positivo. Natalia, da te. Arrivando fortissimo qua. Gappa di positivo, dai. Ti saluto e riprendo dopo la stagione in base. Ciao Carlo, ciao Torino. E ciao anche a Natalina dopo. Ciao. Aspetta Gianni che dice Carlo cosa ho fatto io, che l'ho mandato una foto. Ma cos'è? Faine con cos'è? Salsiccia o cipolla? Cipolla. Ah, Edu, bella, croccante e ben cotta mi sembra, Gappa, c'era anche Franco qua, gliel'ho fatto anche assaggiare, ne ha mangiato un bel po', buona, e c'è uscita tutta comunque, dai. Ma per merenda l'avete fatta? Io ho provato a farla, adesso me la faccio un'altra domani. Buono, positivo. Quindi ti diletti anche in queste cose qua, non lo sapevo che sapessi fare la fainé. Sì, anche Franco mi ha detto, guarda, questa è più buona di quella che compro. Tanto grazie comunque. Gianni! Sì, lo ferma, dai! Vi saluto, ciao Natalino, riprendo la stazione in base, ciao Carlo e ciao anche a tutti. Complimenti tu lì per la fine perché era buona brava. Ok, dai. Va bene, a dopo, ciao! La foto anche a te, non preoccuparti, anche a Natalino. Avanti Natalino, ciao, a dopo. Facciamo dei botti. E a tutti, mi c'è tu. Papà, tutto Roger qua. Ma tu, ma mi ascolti di arrivare adesso, perché? 1:30. Ma tu, che cantellino, la bombetta, tu. Ti avrei dovuto ascoltare molto più lontano. No, non ci sono problemi, no. Va bene, dai, riprenderò dalla stanza. tempo, dai. Buonasera Antonio, anche a te. Buonasera anche a lei. E tutti i segnaloni, questa sera. Quando uno c'ha la stazione buona, funziona così. Un po' di freddino, poco fa sono uscito in terrazzo, è tutto un programma. Guarda adesso, guarda, mi accendo la stufa perché c'è freddo. Fai bene Anto, fai bene, perché dentro casa se stai fermo soprattutto ti prende il freddo. Natalino, ti è arrivata la foto? Buona, buona. Qui sono sicuro che era con l'olio d'oliva quella, ed è un disugo. Avevo solo una cipolla peccata, la prossima mi compreggio 4-5 cipolluzzi, le metto dentro qua. Anto, pure a te l'ho mandata la foto. Ma cos'è, teglia piccola o grande quella, Tony? Ma la teglia piccolina, dai, avevo solo quella, cioè, e basta. Per me già mi basta quello, capito? Però quando ci sono due persone, va bene, mi mangio un po' di meno, a metà. E allora me devo rifare di nuovo un'altra teglia per andare bene. Mi sa, adesso mi hai fatto venire la voglia che stasera prendo una teglia di Fainé. Hai visto Anto, sì, cazzo, che roba seria. E allora Anto, che dici? Ogni tanto mi direte a fare queste cose qua io. Sì, a me piacciono, io ogni vero me ne faccio le teglie di Fainé, no Carlo? E quindi per cambiare qualcosa, capito? Però a me piace col pane. Ma cosa usi? Farina di ceci si usa per fare la Fainé? Cappa, farina di ceci, acqua, e poi quando col frustino elettrico, poi 4 ore per riposarla bene, un po' di sale e una spolverata con il piacimento, diciamo. Poi devo liare la teglia con 7 cucchiai di olio d'oliva. Io lo smaglio che ho fatto non l'ho messo intorno all'olio, alla teglia, porca vigile, poi mi si è attaccata poco comunque, però il resto era tutta perfetta, troppo buona. Ho visto la foto, buona. Io vi devo lasciare un attimo che è rientrata mia moglie e mia figlia, già ci sentiamo dopo. Ciao Natalino, Tonino, Franco se sei all'ascolto, e Antonio, ci sentiamo più tardi. Ok, d'accordo, ciao Carlo, ci sentiamo, stai bene, avanti Natalino. Ciao Carlo, ci sentiamo più tardi, alle prossime, dai, avanti, chi c'era che non mi ricordo. Antonio, sì, Antonio è andato a comprarsi la pelle di tutta la gara. Ma quelle teglie si possono buscare, Tony? Ma allora, la mia non è una teglia proprio vera di Fainé, capito? È una teglia che avevo comprato alla Lidl e l'ho sempre conservata e non mi ricordo dove c'era questa teglia, non me lo dico sinceramente, l'ho comprata la Lidl, l'ho comprata la cantata e te se ne trovo un'altra me la compareggio, è troppo bella, guarda, antiaderente, metti in forno ed è perfetta. Quella lì, comunque con lì, proprio la teglia da Fainé la vendono da centro casa, le vendono. E beh, tu, cosa ti sembra? Mi arrangio? Sì. Che avevo poca cipolla, porca miseria. Comunque Natali, sai, c'è centro casa Antonio, che le teglie già le vende. Giraira a Faro e a Baidu, andava giù di come il presidente, mi l'ambiti una chirata, guva per lui. E la mia è leggera, me. Non è che sia molto pesante, la mia è leggerissima, proprio un abilio fino, ma perfetto anche per il forno, eccetera. C'è anche scritto, infatti, si può usare anche a fare la crostata, a fare tutto quello che vuoi. E niente, io l'ho fatta la prima volta 3 anni fa, la verità. Mi è uscita buona, ovviamente mi hanno dato tutto quello che ci voleva, me l'ho scritto, me l'ho conservato e ogni anno faccio così. E questa è la prima, ti dirò che poi ne farò molte altre. Però se trovo un'altra teglia uguale me la compareggio, a lavoro. Avanti. Ho detto, non sì, se la trovo pure io me la prendo. E provo a farla. Cappa. Però ci vuole la ricetta. Capito, ci vuole la ricetta per farla. Preso la telefono, attimino. Antonio, vabbè, ce lo ricordo. Dimmi Antonio. Allora, ho trovato in magazzino un secondo portatile. Portatile 27, sì? Sì. Quanti canali c'ha? Sì, un bel. al telefono. È così. Poi. E come gli ho non ne posso nulla? Aspetta, qua ci ha mandato un messaggio mio fratello adesso. Aspetta. Non si capisce la fotografia, è incapita. Mario, la fene ho fatto, cavolo, non vedi? Mi ha detto, dice, non si capisce la foto cos'è, lì già si vede che la fai lì. Ma nera si ci vedi, si vede pure la zionda. Ma che mai non ci compra di cosa era? Forse non c'ha posto le bicicli. Ma io ti sto telefonando con me. Scappa. E cos'è, a lavorare devi andare? Ciao. Oh, sto cazzo, che cazzo a lavorare? Che cazzo a montare due camari, hanno sei mesi. Ho capito. Assolutamente no. Quindi sei di riposo stanotte? Sì, oggi è domani, e domenica mattina alle 5:30. Ho capito. Sono concentrati sulla loro borsa. Allora, qui. Cosa c'è la messa. La televisione c'è. Cioè. Non è più la televisione che tu. Dai, Natali, ti sentiamo più tardi, che devo fare un po' di commissioni. Ciao, ciao, ci sentiamo, Manuel, che stavo parlando con la 50. Ciao, ciao, buona continuazione, dai. E beh, cico mi. Oi, Tony. E allora? Tutto a posto? Tutto a posto, niente in ordine. Ma cosa devi fare? E poi cazzo di già la salute. Ho fatto la ferie, ho fatto. Poco ci da buona. Canuzzi, allora cazzo, bombardamenti. No, domani faccio la tortiglia grande. Mamma mia. Natalia, la fane ha fatto. Ehi, tuo madrino ci ha fatto la fane con la zionda, buoi mi. Canuzzi, cazzo, mi farà l'usuraggio. Mamma mia. Aspetta, Manuel, che ti mando anche a te la foto così. Emanuele. Tanto. E allora? Tutto a posto, anche tu e niente in ordine. Tutto a posto, niente in ordine. Come la testa? Aspetta un attimo. A noi ti ho mandato la foto. Cazzo ne ha detto, roba di sviotta, vabbè. E poca, ma ti ho da solo la bioga, sinora è bonito di più. È uscito un bel buonami. C'era Franco qua, California. Si è mangiato un po' di fare niente, cazzo po' che è buona. Chi c'è meglio di se che un pareggio? No, non c'è, sembra buona. Ma vedete se sembra buona. Sì, sì, invece la mente è buona. L'ho fatta riposare 4 ore. Io alle 11 ho fatto l'impasto e poi l'ho lasciata riposare. Penso alle 3:30, mi sono butto, aiuto. E oliare la teglia, poi il forno e via dicendo. Cipolla. Mentre mi sto bene, il coetine era un canale vicino. Sì, ma anch'io ne sento, arrivano forti, gà. Ehi, sull'11 sono. Oh, ci sentiamo più tardi, ma che mi assento. Cosa, Manuel? Ci sentiamo più tardi che mi assento. Ok, va bene, Cicomì. A dopo, ciao a tutti. Ciao, ciao, Manuel. Cicomina. E Cicomino lo chiamo io. Cosa? Così, sempre così l'ho chiamato. Cicomino. E voglio, peccato che è durata poco con la frenica. Ne hai fatto poco di impasto, ne vuoi fare un doppio, ma non ne faccio una fratella, Luttoni. Devo fare di più, ma vabbè. Purtroppo c'era un amico e si è attacco a lui, capito? E vabbè, è andato che lui entra in frequenza, ma ancora non è entrato Franco. Ecco, ma la cosa, se ti ne ha parlato in faccia. Oh, arrivare ai nomi, te gli è tutto, sul forno ce l'abbiamo, se pulimo un poco. No, che è tutta decida tu, tutta canta, la devo rifare. E ne ha occupato 1 chilo di cose, e ce ne va 200 grammi questa teglia, Il tanto, quindi questa teglia. a Pasocchio ne posso una macinella, a Saramacco posso i forrendi, ma niente i forrendi d'oro. Ma mangiamo, c'è un po' di birra al magazzino, è assato. Ma io non ne pico birra. Natali! Uia! Ho detto, beh, andata così, fate un mezzo buco la mascinella e fai i forrenti, ma niente è riforrente. Allora voglio fare una con la salsiccia e una con le cipolle. La salsiccia a cinghialetto, ui. In campagna già ne facciamo uno due di degli da faini e di bizzi ruvorro a legna e ci non l'aggarrimi che accusinavamo guvè. Ma io comunque avevo due panini quadratini, adesso riconosci i quadratini che li abbiamo dal Cesaraccio qua a Antidozzi che è Monica, e ci ho messo la farina dentro perché a me piace quello bene la farina, magante è buona, Sant'Antonio mi dico. Sì, sono a te, uno o due panini mi avevo mangiato con la farina, certo, avevamo ne posso mangiare. Se mi mangio la farina con rubani mi sono stata la glicemia che sta accanto. E io una persona la so perché l'ho detto, mi piace con la rubani, sì, col pane, mai sentito una cosa del genere, ma non si sente, ma l'ha avvicinito io. Sì, perché io no? Se non ne ha mai sentito è perché non è stato io che ci mangio. E beh, ovviamente. Avanti Antonio. Io gioco a mezzodeggio, quindi non è che mi lamento, mi sa la così e boh, parava, ma oggi è andata così. Non sai che faccio un po' di patato bruisso? Potrei fare anch'io, fate fritte, però vabbè, parava. Se facevo la mezza buona, se no no. Ma pure il patato bruisso ti fa alzare la glicemia, vero Natali? Tutto va da ma Rasucci, la facciamo vincolati. Ehi, non mangiamo la fame solo io, sai, senza bane. Con rubane è più buona, la birra si riglia, con chi si guarda il fine che hai detto tu. Adesso ho smesso. Vabbè, fate fare. E allora, ma mangiare solo la fame senza bane è Natalino, non tanto la glicemia. Non è che mi sale tanto a me, no, l'altra volta me l'ha già mangiato quasi una diglia. Che capita con la mare. No, io ho mangiato con due quadratini, la verità. Ma la glicemia, boh, non mi giuro, ma è bassa, non è la prima volta che mangio così, la verità è. Lo ammazza così come ti alza Gianni. Sì, manca a me, però se mi mangio due quadratini mentre sei tu, mazza pure a me. Pizzina. Oggi per esempio ho mangiato altra roba e pane non ne ho mangiato, perché se no mi crepava. Pane non ho potuto mangiare perché avevo altra cosa. Sì. È popolazione. C'è una propagazione tremenda, ogni giorno c'è la propagazione. Nei canali di Summi manda la terra, a me fatti fai Tony. Gatta, ogni adipo è la propagazione. Lo so, dopo i 40, però io ho 80 canali, ma è solo AM questo apparato. Ah, non ne hai SSB? No, niente SSB. Per giù a te che l'hai dato il suo baracchino brisitaro mio, vieni a no che ti lo dicevo io come ti funzionava. È facilissimo, e tu l'hai dato. E poi chi su bumpava più di Romeo, a chi l'ha bumpato chi su l'apparecchio. Quello ragazzo è poco bumpava, era tremendo, era. Perché quello che me l'aveva dato, l'aveva tirato, l'aveva. Compagno di scuola. E dava un casino di vatti. Non ne fa nulla. Ha bisogno da 60 vatti in coso. In SCB. A me era troppo complicato, capito? Sì, è bello quello che vuoi, però no. Io mi divertivo più con Galaxy, dimmelo che vuoi. E me lo piglio d'ora perché mi attacco lo conosciure, che sulla volta esci. Ah, certo, conosciure è una belva il Galaxy, ce l'avevo anche io. E quindi a tutti i microfoni lo sciure. Al Turner più 2, al Turner più 3, usciva più forza lo sciure. Ce li avevo tutti io quei microfoni. Ce li avevo. E li ho provati, ho fatto le comparazioni. Ma col Galaxy andava meglio di tutti lo sciure. Avanti Antonio, allora fatta tu visto, niente fai lì. Pronto per prepararla, ci abbiamo visto di prendere. Va bene, buono, buono, io ho le patate fritte, se me ne faccio ho la friggitrice d'aria, capito? Quella da 10 litri, è abbastanza grande. Io basta che schiaccio dove c'è girato le patatine, è tutto illuminato azzurro, bello, è fatto da solo, temperatura e minuti. Io direi come sta anche la lista, l'ho vista. Io questa qua l'ho vista invece risparmio a casa. 120 euro questa qua, allora io non l'ho pagata a 120 euro, ho avuto una fortuna perché su Facebook c'era questa ragazza che l'aveva comprata, c'è 120 euro, c'era anche lo scontrino ancora, e per lì era troppo grande e ne voleva comprare una piccolina, 2 litri e mezzo, e quindi beh, gli ho detto quanto ne vuoi, ma tu guarda se mi dai 60 euro te la sto dando, aiuto dove si sì, sto venendo, sono andato in macchina giubiliata, io nuova attore, e ce l'ho già quasi un anno io, troppo vecchia, e poi caspita il patato è un amore senza olio, guarda. Dice che cucina molto bene. Cappa, a vapore. Aria calda, ma un bel forte. E io. Troppo dopo, sono troppo soddisfatto, contento, guarda. Oh, non l'ho mai trattata, dice. Quando potremo la comprerò. E cappa. E fa bene anche la salute a tua, Perché quando parte fritto non ci metti l'olio, le fai così, è un bombo e ti fa bene anche alla salute, perché l'olio già lo sappiamo, non è che si fa già sai bene, no? Roba frittura, rubiga, tu, oh yeah. Lo so. Io da quando ce l'ho sono rinato, la verità. Ho fatto un po' di tutto, dai, con quella friggitrice, anche calamari, tutto, buono. Perché c'è lo schermo che si illumina tutto in azzurrino, bello me, tutto il pollo, i calamari, i gamberi, tutto per disegnato, e ti dà lui stesso la temperatura e quanti minuti. Poi il bello è che i minuti scendono ogni secondo, poi quando ha finito arriva a zero ti fa 5 squilli forti e poi si spegne, bestiale, c'è la luce e tu lo puoi accedere quando vuoi, guardare. Buono. Natalino! Uia, mi dica! Ma è un compagno tuo, ha detto che rientrava in casa e attendia, invece non si è spesso, è della macchina che ha dovuto venire Gianni. Ma chi, Gianni o Franco? Franco ha detto che entrava, ma evidentemente è andato a fare che commissioni. O l'ha mandato Lucia, anche lui. 1290. Ma forse deve essere sigarette, perché a Franco ancora non l'ho sentito. Il Gianni sta parlando che era in macchina, Ma Gianni, pure a Gianni non l'ho sentito, la verità, perché cioè, stavo parlando con mia moglie, magari ero distratto e non l'ho sentito a Gianni. Gianni ogni tanto già entra, ma invece con le cuffie, con la musica, che aveva detto che entrava, ma non entra mai, è ovvio. Un canale dei fantasmi così, o delle morti. Canale dei morti. Io avevo giudito dovevi andare a cantare in questura, invece no, è dove canta un bici guffi, E questo non ti dia meglio. Allora, e tu devi cantare che va a bella voce. E non ti dici. Ma tu e tu ha continuato a cantare? Sì, ogni tanto già canto ogni tanto. Ci vuole passione, ci vuole. Se mi pongo a cantare io a mangiare i cani. Adesso sono anche un po' fuori allenamento, ma quando mi si pongo adesso, anche perché non stiamo riuscendo a copiare più come una volta, no. Prima che non abbia allenato, ho cosa vuoi quando smetti. E vabbè. No, a me a Cattau, la carità, no, non mi piace. Uno che piace è diverso. A me non piace, piace ascoltare Bubi. Ma magari non ma l'ha mai fatto, magari non hai avuto il coraggio. Ma no, perché potrei cantare in casa da solo. Poi tra me dico, cazzo, sono contento la giura, come tre macchine, no? Che mi tende pure se mi ma qua. Ah no, no, tu mi sono venuta. Cosa è? Hai mai provato a misurarti la tua voce? Magari puoi magari puoi lo scoprire. No, ma ecco, faccio a misurare la voce via. Perché io un po' di anni fa non l'avevo mai fatto. Pure quando mi sono messa a cantare ha detto un cazzo. E non che la musica abbia fatto. No, io non l'ho mai fatto. Fino adesso mai, mai, mai, mai. Io me ne sono accorto dopo. Oh, io il Sant'Antonio di Galluna. E ci ha provato a telefonare a Franco per ci rispondi. Giro, vendi anche commissione. Prova a telefonarlo. E ci ha provato a chiamarlo. Ehi, io mando, se scopera appena guai. Lui canta, io canta, canta, a Chierusale. Ma che lui non mi conosce in giro. Franco non risponde. Ho chiamato la 650, ma è tutti che mi chiama dopo, lui sono impegnati, dai. Sicuramente impegnato. Il K anda bene. Perché io quando vado nei locali, da poi che mi conosce, mamma mi si attacca, mica. Non è a cantare. Giso, oh, è Chizzo ancora, pensavo che era per te a giocare. No, è Chizzo, non è a cantare, pure. Voglio, mi dici, come ci ho mandato burro la foto la fai a Gianni, dove c'è la... sarà più che questa adesso, la picchio, un messaggio, allora, WhatsApp. No, Gianni non la picchio. E allora è Cantelli. E allora è Cantelli. E mi sa proprio di sì. E rinviati, un bici... Gianni è venuto a casa tua e avete cantato? Ci ho rinviato da karaoke io. Capo, già lo so, me l'avevo detto. Ho fatto una bella cantata. Prende freddo comunque, no io sto bene adesso, il condizionatore non è acceso. Poi c'è auto l'attento se fa freddo. Hai visto? Lì ci abbassavo la pressione perché non ce la faceva, il motore non spuntava. E beh, c'è il condizionatore partito, di spunto. Mi ha detto subito Franco, infatti, c'è il padrone, la tredina, ha comprato il pizzo, il casino me l'ha piazzato. Poi si appoggiando qualche cosa a Buruendo, giustamente. E beh, ha fatto bene, giustamente, io ci ho detto che è bravo, che cose, quindi, capito? Beh, già si fa il lavoro a conto suo, meglio così, Ehi, aspetta, mi stava chiamando, aspetta. Ehi, Asu. Ehi, dimmi. Beh, come va? Bene, bene. Tranquillo? Ehi, a chi sei che non ti ho riconosciuto? Non mi stai riconoscendo? No. Sono a volte. Grazie. E comunque la musica lo so che fai sempre fatto così, ma non lo so, certo, non so, l'ho acceso adesso in questo momento. Non so chi c'è, dimmi. C'era Tonino e coso e Natalino. Anche Natalino c'è. Ciao Natalino, come va? Saluto anche Tonino. Ciao bello me, mi senti? A te certo, stai spaccando tutto, ammazza. E cosa ammasso? Ammazza, è troppo alto, sì. Cazzo, troppo alto sono, boh. Non posso abbassare nulla, no, bisogna che con lui va. Non pare se vorrei in casa, no. E io forte ti arrivo. Guardalo Smith, adesso l'aumento. Mi, adesso sono con 15 watt, adesso è al massimo. Ero con 2 watt, adesso lo riporto a 2 watt. Tieni, a 2 watt sono. Non c'è bisogno di alzarli gli apparecchi per Sassari. Sì, sì, già ho capito, però adesso con l'ultimo passaggio che hai fatto di aumento a 15, andavo un pochettino in distorsione e strappavo un po', però era chiara. Sì, vabbè, magari ce l'avevo troppo vicino il microfono, adesso è lontano. Ha paura che lui... È l'MB4 questo, è un bel sensibile. E ha strappato un pochino, però già è chiaro, potente. No, io non lo sento strappando, la verità. E io quando ti arrivo lì, da quale parte? 9:20 a tu. Vabbè. Chi è l'amico? Ma adesso lo volevo dire veloce, non mi viene. E a me mi senti? Ciao, ciao, ben sentito. Io sono comunque Vittorio Volpe, per saperlo. E che zona sei Vittorio? Ciao, ben sentito. Sono zona... zona, è male a dirla. Attraverso la camionale, ecco, mi ritrovo sulla parte sinistra. Io sono zona San Camillo, come ti arrivo? Sono fuori Sassari. Beh, io lo so da San Camillo. No, no, arrivi bene. Segnale di 9 qualcosa, vai, buono comunque. Già va bene, dai. Sono liscio liscio, 4 watt in uscita in antenna. Come me praticamente. Io sto facendo un apparecchio che fa schifo, però ancora funziona. Capavolta, comunque, non so se sono Torino o Kawasaki, dai. Bene, Meda, la talina avanti. Eia, cazzo, ma di tu ammassare, cosa ammassi, no? Mi ammasso devi chiudare, secondo i va. Comunque, Franco è pregnato in macchina, con Lucia, e tra l'altro in campagna a portare le crocchelle e le cane, perché da due giorni veniva senza crocchelluzze. Ecco perché lo sta entrando in frequenza. Vuol dire che vi lamentate, Lucia, e so paradisino, pone da gara animali senza magnanno. Vabbè, assolutamente no. Antonio di primi. Kappa, pure tu sei 9:20 qua, Vittorio. È bello forte. Vabbè che io sono all'Imadella, sono latte dolce adesso. Beh, no, già è potente. Io ho un'antenna e partito, sveglia e energetica, ma purtroppo è tornato così. Ma ne può avere funzione ancora. Quando non funziona più, nel caso tutto, e ci butta tutto qua. Qua sì, Santiago 9 volte. Cappa, no, sono contento che arrivo anche lì bene, insomma, perché sono zone intese per me quelle. E anch'io, che sono molto libero nelle nostre zone. Diciamo che l'antenna l'ho spostata, ho messo il palo un po' più alto, sento Alghero che non lo sentivo, sento meglio Porto Torres, quello sì, che prima lo sentivo molto più basso, adesso più forte. Ho più ricezione, diciamo, però sono coperto in altre zone ancora. Certo, quella zona è tutti verso il versante mare. Ma comunque, l'importante è che mi faccio sentire con gli amici a Sassari, dai. Capo, a te a tu. No, io, vabbè, forse ti ho di fronte, non a Monteoro, è così. Sì, io sì. Sì, sì, io ti ho di fronte, insomma, io quindi non c'è problema. Natale. Oh, ieri mi vi tu. Raccontaci qualche cosa, che tu sei sempre un guerriero in queste cose. Sono un guerriero. Guerriero di frequenza, allora, di frequentativo. Sì. Insomma, c'è la vecchiaia che ci fa sentire e me ne sto un po' in disparte io. Mi sono demoralizzato, Vittù. Demoralizzato, bisogna reagire e andare avanti, non si preoccupare. L'importante è tenersi in forma e non perdersi d'animo, tutto qua, a te. Sì, lo so, lo so. Purtroppo la salute non mi aiuta per il momento. Se c'è cacciamo tutti quanti, perché tutti lo sai qualche anno di differenza, se ci cacciamo così hai perso, e quindi è meglio reagire e fare quello che ti ho detto prima per andare avanti, se no non puoi andare avanti così alla giornata, anche se stiamo andando tutti quanti alla giornata oggi. Lo so, la posizione che vuoi fare, purtroppo. Sono stato sfortunato, diciamo così. Oi, Aldo. Ehi, dimmi. Raccontaci qualche cosa delle tue avventure. Ehi, dovevo andare a nuovo, invece mi hanno avvisato, la serata è povera, ci andiamo solo in due, basta. Ma va a Napoli, va. Dovevo lavorare, invece no. Che palle. Vabbè, ma anche quello è un lavoro. Se devo travagliare, poi è un casino. Faccio un attimo che mi stanno mandando un messaggio, riprendi la tavola. Ui, Zanca, che ore sono? Le 6:10, è presto. Ehi, avanti, sono rientrato. Aperto alle 10, c'è qualcuno? Sì, ci sono io, Antu. C'era anche Vittorio e Tonino, ma evidentemente si sono spostati, non ho sentito più a nessuno. Vittorio, ci sei ancora? Ho detto un attimino perché stavo rispondendo a un messaggio. Io ho capito. Andare, io fra un po' mi metto a cucinarmi qualche cosa. Deve fare delle commissioni e deve uscire. E quindi sarò solo. Davvero? E a Luca mi. Stamattina nuda, sono la perché sto attendo. Ho provato lì in via Romagna, non finne. No, in via Pascoli. Porra, cazzo, non ce n'è tu. Già lo cerchiamo. Vega, non andare. Non ti preoccupato. Se mi servi. Domani esco. Mi dai di un altro compare. Ah, tanto mi serve subito, capito? Subito, allora diciamo una cosa subito, ti serve subito, non domani. Allora non è che dà, cazzo di Napoli. Andava, da. Aspetta che ti chiamo, da. Chiamo. Ciao Natalino, che c'è? Tonino c'è? Ciao Tonino. E Tonino si sarà spostato lo stesso. Io ti sto chiamando. Hola, attenzione al canale 10, c'è qualcuno? Ciao già, ci sono io, buonasera. Ciao Natali, allora, buonasera anche a te. Tuia, mi è acceso adesso, in questo momento, ho detto se c'è qualcuno, perché stavo cantando. Ho finito adesso di cantare, adesso mi prendo un po' di pausa, che mi stava seccando la gola. C'era Tonino, c'era Antonio, Vittorio Volpe, c'era, è entrato Carlo, dice già entra più tardi, poi c'era Franco, e adesso si sono ammutoliti tutti. E come mai? E come mai tutta questa gente ce ne sono tutti andati? No. Adesso perché sono entrato io allora? Ah, scusa perché sei entrato tu. Ha fatto una fine e sì davvero merda. La giuvista in fotografia. Quella zioda si era fatta, Donino. Fino a poco tempo fa. È bravo, va. Va bene, va bene. Io cosa ne faccio da solo, cosa mi faccio la fine, che da lui mi tocca mandarmi a tutta la giura. Mi anche a te la foto te l'ho mandata già e dopo la guardo che sta caricando, perché stavo cantando e l'ho scaricato. La foto, tu mi devi mandare a venire la foto. No, c'era Franco che mi ha aggiustato il condizionatore qua, e già che c'era mangia da che lui, e mi ha detto, ma lo sai che è più buona vita che hai fatto tu, che hai c'è che il cupareggio? Avvio. Vuol dire che c'è la mano, che si è fatto la mano, là. Ecco, guarda che la foto. Cazzo, ma è durata a me tutta mangiata. Fammi avere la ricetta, tu. E magari qualche volta provo anch'io a farla, là. Se c'è carta e penna, te lo dico adesso, se no te lo mando tramite messaggio. Mandala su WhatsApp, così almeno poi ce l'ho. Quando voglio vado e la guardo, capito? E adesso l'ho appoggiata a letto, dopo vabbè, mi alzo. Dove ce l'ho scritto, ti faccio la foto e te lo mando WhatsApp. Così ci provo anch'io a farla, dai. Ma c'è scritto anche i cucchiai di olio che ci vogliono, tutto quanto. Lui cucchiai di olio va nella teglia, non metto e metto l'impasto, ma stai scherzando. 200 grammi di farina di cicci, 700 di acqua, neanche un litro praticamente. Frulli tutto qua, c'è un frullatore elettrico, frullo da poi lo lasci riposare per 4 ore, poi oli bene la teglia e poi ci metti 7 cucchiai di olio, poi metti l'impasto dentro, lo metti in forno, un'oretta e ci appuccio. Quanti cucchiai? 7? Yes. Non rimane troppo oleosa. Ma sta scherzando, che olio, ma è la teglia che ho fatto io, ma così vedi l'uso. Ma. Ok, ma teglia grandi usi? Non so da quante, se 35 per lì, non lo so. Ma tonda? Yes. Cappaglia. Vabbè. Qui c'è da provare, però bisogna anche avere la teglia giusta, perché se no magari se la teglia non è... Io ho quella per le pizze, per la piazza. No, ci vuole coi bordi, la mia c'ha i bordi. Cappaglia. E poi tu l'hai fatta là? Sì, io l'avevo fatta in pasticceria. L'avevo fatta. Cazzo, ci dà una bomba. Cazzo, lo dura arriva a me. Tu devi oliare bene tutta la teglia, devi oliare. Se no ti si attacca. Compreso, devi mettere il forno un bel po'. Quando arrivi tu al massimo si inforra edda. Ed esci vecchio. 200 gradi ho messo io. È così, tanto i forni di casa sono così. Lo metti al massimo, 200, rubone. Quando arriva a 200 ti rabbone a edda, quando è meducato il vorro. Ci sono famiglie celebri in cui... E vedrai se ti esci la cosa. Buono, io tu arriva a me. Vabbè, io manco per cucinare ne uso quello per friggere, dai. Uso sempre quello extravergine. No, è pesante. Io ho olio Verdone che me l'ho dato, ho fatto dall'olio di oliva proprio puro. E quindi è uscito un bombone a tariffa, la verità si inchia, guarda. Io burro l'ha già buccato, lo zonovo, Tony. 15 anni. Che non faccio una teglia, se no io me l'avevo fatta pure io. In casa. Faccio un forro, cazzo, mi sa poco dentro. E poche mano. Ma vado e mi compro la teglia. Quando mi compro la teglia me la faccio. Tu pensa a quanto guadagni le chiuse della Fainì. A che costa la cazzata a farina e cicimi? I ingredienti ce ne vanno poco, acqua, una spolveratina di sale, cazzo, ma guarda, è troppo in mare piroga, se l'ho messo a punto, ma gli è messo un po' di fai. Magari c'è la basibona, mi fatto ridire a puro. Vuol dire che c'è una... Noi la basia nei con un forro a legna in campagna di Ruso Saluti e Fradetto. Ma così amici di tutto, fai le pizze, la garri, ma anzi come si ci aveva. Io il forro lo conosco, no? Quando diventava bianco vuol dire erano i 500 gradi, ti infurrava in chivi a pedella, di tutti i rimaneri, con la salsiccia, con la zioda, di tutti i rimaneri la fai la basia. E le pizze ugualmente uscivano veramente buone col forno a legna. Beh, il forno a legna è a legna, capito? È l'ideale, sia pizza che fai. E io ce l'ho con l'elettrico e ciccia, vabbè, comunque ci dà buona mattezza. Io ogni tanto la guardavo, sì, poco dopo visto che era cotta, boh, basta. Questa è dorata, soffra, no, è tutta un'altra cosa, dai. Sono veramente soddisfatto e contento. Ma gli alla giuvita la fotografia che ti ci dà parte della mamma. Mi lascia farla fare, mi raffreddi, non è così. Come l'hai fatta? Grossa, fina, come l'hai fatta? No, non è molto grossa, è fina un po'. Perché ci sono persone che la fanno troppo fina, troppo grossa. La faceva bene quella di fronte a casa, una volta l'ha portata, guarda, pure io, se non mi avesse detto che era lì la figlia, io non ci avrei creduto, sembrava fatta in forma. Guarda Maria, cosa ti posso dire? Non è né grossa né fina, è normale. Ed è buonissima Gianni, se posso garantire che sono stato soddisfatto, contento anch'io, che è uscita buona. Poi mi ha fatto vedere a Franco che l'ho lasciato un pezzo, l'ho portato a Lucia, e l'ho uscita Lucietta che è veramente buona. Ehi, quando è fatta un momento della simpatia, che l'ho visto, è buona. No, sono io qua. Sì, perché quando la compri o è troppo oleosa, o la bruciano, oppure è troppo fina, non trova non la via di mezzo. A me è uscita veramente ok al 1000 per 1000, non era né oleosa, era saporita e buona pure, quello te lo posso garantire al 1000 per 1000 già. Io non è il primo anno che faccio la Feni, a me tutto le cose me l'ha data mia sorella e me l'ho scritto un pezzicata. Ieri l'ho trovata, dov'è? Sono riuscito a giubbiare la pari di Cicci e oggi poi deve riposare 4 ore giustamente. E ti posso dire che alle 11 ho fatto l'impasto, lo chiamo dai, e stasera alle 3:30 ho iniziato a mettere su nella teglia. Vuoi riposata? Non è che te la puoi curare subito, no, se non ha riposi non andrà bene. E poi devi far salire il forno, oppure quando sale il forno a 200 ce l'hai in forni ed esce una bomba. Cappa Natalino al 100% per forza per riposare, se no esce una grande fesseria. Io la prima volta non lo sapevo, l'ho fatta, invece il forno è uscita una fesseria, se l'ha già lampata, non la via manco già ore. Poi quando mi sono detto no, la devi far riposare 4 ore, e ok, blu basta, poi ho fatto sempre così e tirò un bombo, veramente sono troppo contento. Infatti, quando vasi nell'impasto, lo vasi ne prima per farla riposare, ma poi andano, andabbene, intanto lo vorrei accendi, quando ha taro vorro che diventa bianco, che si rivela a legna. Ma buono, nella teglia ce la inforrani e esci di lusso. Antonio la pazia buona a miei nobbi in Corso Trinità, c'è in via San Donato dove c'è la chiesa, vai appena più avanti e io sono via la pazia buona a Biru. E io lì mi servivo quasi per uscire al corso, e io Antonio la giurita proprio così, io la pigliavo lì, ma anche via buona a Biru. E siamo andati anche insieme a prendere la mia opportunità, lo ricordo. Scappa. E già è buona anche lì, è buona. Io quest'anno non ne ho mangiato nulla, ma a volte io la prendo, no, me ne avanza, non ce la butto. La metto nel microonde, anzi quando ce l'avevo, perché se ce l'ho buttato via perché mi si è rotto, ma quando ce l'avevo la mettevo nel microonde e via. La scaldavo ed era come se l'avessi appena comprata. A me piace anche fredda già. Già è buona, solo che troppa turisti, stufa, mangiarne troppa non ce la fai, ti grima. Io avevo 2 quadratini stasera, ma ne sono imbottiti, che buona. Grubani è favolosa, se è buona poi. Adesso ti vai a me a fare Grubani, come si guardati di brutti come. No, io col pane non ne ho mai mangiato in vita mia, mai. Ho sempre mangiata così con il pepe, quella normale, invece quella con le cipolle il pepe non le metto. Prova a due Grubani, da poi mi diverueggia. Di vino Doni. Marco a paragone, io e Grubani, io sempre da Bezzino pure, sempre Grubani. Cazzo, il mio 4, 5, 7, 20, un gnabanino mi va zio, troppo buona, guarda. E vabbè, oggi avevo solo due quadratini, ma adesso mi organizzo meglio, domani compro 10 quadratini. Ma non è che mi mangio più i dischi, no, aspetta, tolgo la polpa, poi metto il freezer e mi faccio un doppio impasto per affare a che me ne posso dubbi. Dopo che una è cucinata da voi, sotto l'altra, tolgo una, mangio e metto l'altra. E non si fa, una intende e l'altra scende. Goloso, va. Già te la posso assaggiare, ma che mi avvini. Goloso. Oi, oi. Stanco sono. E adesso mi da cosa, da una carnuppina, io la prendo sempre lì, la fa buona. Qualche giorno me la prendo, ma quando prendi la peglia piccola tu lì, è già manna i saminori, è manna manna. Ma cosa manna manna, ma io ho imparato una cosa, che siccome la farina sta sempre aumentando ogni anno, io con pochi spiccioli mangio la farina che voglio, quindi con 5 euro mangio un chilo e ne posso fare 5 teglie, con 5 euro io con 5 euro me ne faccio 5 teglie e mi basta. Pensa quanto ci guadagna quello della farina. E a chi sono 200 grammi di farina e ho 200 d'eva o tu già giù di tu. Il pone l'usari, la iri in modo che non vi siano i grumi, piano piano, e da pure poi riposare. Quando riposa chi si 3-4 ore, accendi il forno, vai a sa, a 200 si la imposti, e da poi mi diverò è. Già è buona la farina, a me mi piace con le cipolle. Con le cipolle, perché è normale, non mi si vara. Io disgraziatamente avevo soltanto una cipolla, ma domani mi occupo di un sacchetto di ziotti. Che cavolo, avrei faccio bene di ziota. La cipolla gli dà sapore buono. Buona quella ziota. Ma te l'hai guardata la foto già? Sì, ma è in carica il telefono, ce l'ho in cucina, io sono sdraiato e cavala da lei. E dopo vado, quando mi alzo la guardo. Però tanto è inutile che la guardi, se non vuoi mi vedi la gara di biliarda. E tu esiti, domani la pozzia, domani. Che bella. Anche Franco era contento, anche Lucia ha detto che è buona, vuol dire che è buona. Se hai imparato a farla, vedo così, risparmi e tutto, e sai cosa ti muore. È 3 anni che la faccio, già, quindi. Non è che gli altri anni li facevo spesso e volentieri, ma quest'anno mi pare che la posso spesso e volentieri. Alla manco una mucca la guida la posso. Ma lo sai io cosa l'ho fissato? Che ci voleva la teglia stagnata per farla, capito? Avevo quella fissazione che non si poteva fare in altre teglie. No, io ho una teglia antiaderente, che la cosa, non mi ricordo come l'ho presa, la linea l'avevo comprata, era in offerta, c'è l'altra roba, non mi ricordo. E ce l'ho sempre, ce l'ho già 3 anni e mezzo, 4 anni, non mi ricordo. E quindi ci ho fatto anche le torte, ci ho fatto tutto e ci faccio. E la verità è troppo, è alta, mi sembra un 4-5 centimetri, fatto il conto. E qui sono troppo contento, guarda. E là mi va bene, perché giustamente se è piatta fuori il pasto si vara, capito? Ci vuole il coso alto, almeno. Sennò è un casino. Come certo. Mamma ce l'aveva così, faceva le porte e tutto quanto, con la teglia di rotonda grande. E allora, il buon euro, quando vai riduti, vanno attaccati, ed ci dirusa vero la duccia, lo bandi pagna. No, non è 8 lì, ce le ho tutte piatte, io le teglie cosa le uso per arrostire, per fare roba rossa, nell'arrosto, porcetto, questa roba qua, pollo, però dolci non le faccio, quindi non ne ho mai avute. Vedrai poi quando c'è la farina che fossi io, tu ti recupererai, ma te sì, le teglie, la farina cicci la fai pure tu. Sì, infatti. Io lavorio donda radiglia. A chi non naggio di chi si don di così. Oppure un disagguadrata si può fare. Basta che va già rivogli, fanno fare anni da l'impasto. E sì, a dama la fai. C'è poco da fare. è il quadrato e ne ha di tutte le misure. È rettangolare, come la vuoi, non c'è problema. Comunque nel vetro io ho quella leggera leggera, infatti ci dico che si poteva mettere il forno, ho fatto altre cose, il forno a 200 gradi, perfetta la teglia, è antiaderente, leggera, e io la faccio sempre lì, la faccio. E avanda, dentro casa, a che Antonio ha detto che bisogna dentro casa che si degli così. E mi raccomando un pareggio. E così magari ne biglio due, non si sa mai, magari mi casino tutti e due, ne posso vedere, una normale e una curaziota. Aspetta lì, non andare al centro casa che dei mogini che c'è caro, una farmacia. Vai invece che non so dove la trovo, e tieni tutto quello che vuoi. Vai, risparmio a casa e risparmio a vero. Ah, anche lì c'è, già mi servo anche lì. Adesso vedo se ci sono. La prossima volta che vado a fare la spesa me la compro. Natali, tu ci sei andato mille volte, ma forse non ci avevi in testa il coso di fare come sto provando adesso di fare, e giustamente la previsa non ci hai fatto caso, non è che adesso che lo sai, scommetto che quando vado la c'apri subito. E a chi ando pure piazzicalla. È logico, no? No, non ci ho fatto mai caso se ce n'erano di teglie così. Se no, se la via riccia me la riubiliata. Avanti già. E allora, si è tornato solo di Fenì. Sono teglie, sono bombe. Ciao tu. E tu la fai la feria tu? Non l'ho mai fatta. La faccio, sai quello, aiuta a Gianfranco prima a fare il padellone della feria. E da Gianfranco ce l'ho dato anche io. Però lui lo metteva in mezzo alla teglia e poi lo girava con una specie di paletta che c'aveva, lo girava tutto, faceva girare in mezzo all'olio e un po' lo metteva nella teglia e un po' lo metteva in mezzo alla farina. E così va fatta.